Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Ci sarò io oggi, poi domani tornerà Sebastiano Barisoni. I temi di oggi, naturalmente saranno in gran parte quelli europei, come è naturale e ovvio a seguito delle elezioni. Innanzitutto faremo un punto sulla questione della Commissione, della formazione della Commissione europea. Ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi agli altri leader europei: prima le cose e poi i nomi. Però è vero che queste sono le cose che si dicono sempre, non è che non si dica altro. Prima facciamo il programma e poi pensiamo ai nomi. In realtà la trattativa è proprio su quelli, posto che naturalmente l'Europa finalmente, sembra dire, si può dire, si interroga su come è stata condotta in questi anni di crisi, anche grazie per certi aspetti al successo di alcuni partiti euroscettici, che in questo momento tra l'altro stanno facendo una conferenza stampa alla quale partecipa Matteo Salvini della Lega, Marine Le Pen del Fronte Nazionale, l'olandese Wilders, gli austriaci, insomma tutti i partiti che vogliono formare insieme un gruppo parlamentare appunto euroscettico e che in qualche misura sta anche dando una spinta ai vari paesi europei perché insomma modifichino l'impostazione, per così dire. Di questo tratteremo naturalmente e parleremo anche, stiamo facendo in questi giorni, come avete sentito, degli approfondimenti su singoli paesi e su singole vicende. Ci occuperemo oggi dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, un accenno breve giusto per capire un attimo come vanno le cose. Resteremo in parte su questi temi per parlare però di mercati, perché oggi c'è stata un'altra asta di titoli di Stato italiani molto buona, riguardava i bot a sei mesi, è salita la domanda e sono scesi i tassi. Nel frattempo l'asta di titoli di Stato trentennali tedeschi è stata un flop ed è dovuta intervenire la Bundesbank. Vogliamo anche cercare di capire come si possono spostare i mercati in questo momento, soprattutto i mercati dei titoli di Stato nella fattispecie, anche perché no, buttando un occhio ai titoli di Stato francesi. Ci sono segnali, notizie che sono arrivate questo pomeriggio, insomma, circa una mezz'ora fa, e che arrivano e che riguardano proprio le entrate fiscali francesi. Ebbene, il deficit della Francia è calato meno del previsto, non per l'inefficacia dei tagli alla spesa pubblica, ma per colpa di introiti fiscali nettamente inferiori alle stime del governo. A dirlo sono la Corte dei Conti francese e l'Alto Consiglio per le Finanze Pubbliche. Vengono a mancare alla Francia 14 miliardi e quindi da capire anche qua come andranno le cose sui mercati. E per restare sui temi europei, o meglio delle elezioni europee, c'è da raccontare una cosa che può apparire parzialmente molto politica per questa trasmissione, ma in realtà è una cosa che ci riguarda da vicino, perché riguarda una delle aree più produttive di questo paese, che è il Veneto, che oggettivamente ha dato un'apertura di credito straordinaria al Partito Democratico di Matteo Renzi, e vorremmo capire dagli industriali, e lo faremo nella seconda parte della trasmissione, che cosa si aspettano a questo punto dal governo, i perché di questa apertura di credito. Come sempre il numero per intervenire in diretta è il 349-238-6666 via sms, se volete potete scrivermi anche su Twitter, Simone Spezia. I mercati, al di là di quello dei titoli di Stato, oggi sono positivi, più 0,90% sul FTSE MIB, più 0,88% sul FTSE All Share, mentre sono negative le altre piazze finanziarie europee. Francoforte cede lo 0,18%, Parigi lo 0,09%, Londra in lievissimo rialzo, più 0,06%. Tra i titoli migliori In Italia Autogrill più 4,15%, Telecom Italia più 3,62%, Ubibanca più 2,6%, Banco Popolare più 2,4%, GTEC più 2,02%, Intesa San Paolo più 2,09%, in fondo al listino IUX che cede un 2,12%, Terna lo 0,41%, Snam lo 0,37%, Popolare di Milano lo 0,15%, Ferragamo lo 0,13%, Eni lo 0,11%, Pirelli lo 0,08%, tutti gli altri titoli, almeno sul FTSE MIB, sono positivi. E anche questo, come sempre, sarà un argomento di approfondimento, uno spazio dedicato con i colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Iniziamo dalle notizie in breve. Non è solo di nomi e di questioni che riguardano puramente i bilanci dei paesi che si deve occupare l'Europa. Oggi è stato diffuso uno studio della Commissione europea sulla sicurezza energetica. Particolarmente importante adesso che in Ucraina la situazione è quella che conosciamo, di grandissima tensione ai limiti della guerra civile in alcune zone del paese. Nel momento nel quale la Russia ha firmato pochi giorni fa, e ve lo abbiamo raccontato, un accordo importantissimo per la fornitura di gas alla Cina, e si parla proprio di gas. Dice Bruxelles: se ci fosse uno stop delle forniture di gas dalla Russia in inverno, quasi l'intera Unione Europea, eccetto la penisola iberica, e quindi Spagna e Portogallo e la Francia del Sud, sarebbe verosimilmente toccata in modo diretto. Dice il commissario europeo all'energia Günther Oettinger: dobbiamo evitare tutti insieme un'escalation della prossima settimana tra Ucraina e Russia sulla questione del gas. Perché se così fosse, nei mesi estivi non sarebbe possibile riempire i depositi di gas e ci troveremo in difficoltà nel caso di un inverno molto freddo. Oettinger forse farebbe bene a dirlo anche ai suoi colleghi europei, visto come è stata gestita la crisi ucraina da Bruxelles. Comunque la Commissione europea propone di realizzare stress test a livello regionale ed europeo simulando uno stop dei flussi di gas per prepararsi al prossimo inverno in caso di interruzioni delle forniture e identificare rischi e meccanismi per prevenirli. Che cosa si può fare? Aumentare le riserve di gas, ammodernare le infrastrutture rendendo possibile ovunque il reverse flow e mettendo in comune parte degli stock di gas. Reverse flow vuol dire far andare sostanzialmente il gasdotto nella direzione opposta alla quale va normalmente, per dirla molto semplice in maniera molto brutale. I dati al trasporto aereo della IATA: la domanda accelera, il traffico in aprile cresce del 7,5%, una crescita del 2,9% rispetto a marzo, e parliamo del traffico passeggeri. Il direttore generale dice: non è chiaro se questa accelerazione sia sostenibile. La Germania, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato a maggio al 6,7%, però aumenta il numero delle persone senza lavoro a sorpresa per la prima volta in sei mesi. Questo mese è un rialzo di 23.937 unità a 2.905.000 disoccupati. Le stime erano per un calo. C'è stata l'asta, poi ci arriveremo più avanti, come si diceva, dei titoli di Stato trentennali tedeschi, raccolti 1,623 miliardi di euro con il Bund cedola 2,5%, scadenza 2046, rendimento del 2,25%. Il punto è che il collocamento è risultato tecnicamente scoperto. A fronte di una domanda degli investitori pari a 1,85 miliardi, sono state accettate offerte solo per 1,48. C'è stata anche l'asta dei titoli di Stato italiani, in questo caso a scadenza breve, a 6 mesi, collocati tutti 6 miliardi e mezzo di euro di bot semestrali, con tassi in calo allo 0,492% dallo 0,594% di aprile. Cresce la domanda con un rapporto di copertura in rialzo a 1,70 dall'1,61 precedente. Ci sono anche le parole di Fitch: la chiara vittoria del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle e Forza Italia rafforza il mandato di Renzi, è positivo per il profilo di credito e quindi di valutazione del nostro paese da parte dell'agenzia di rating, perché dovrebbe dare a Renzi ulteriore spinta per l'agenda di riforme economiche. Poi naturalmente starà a lui. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, nel corso del question time alla Camera, parla del semestre europeo a guida italiana, presidenza italiana, che si aprirà in luglio, e indica le priorità. Sentiamolo. L'Europa deve chiaramente mettere al centro della sua agenda di politica economica la crescita e l'occupazione, dopo che al centro della politica economica negli anni precedenti alla crisi è stato piuttosto il consolidamento fiscale, che peraltro va mantenuto perché è bene prezioso e fondamentale per la crescita, e l'aggiustamento profondo del sistema finanziario nel quale la crisi si è alimentata negli anni passati. Quindi crescita e occupazione come tema centrale in un contesto nel quale stabilità finanziaria e stabilità di bilancio siano rafforzati ulteriormente. L'agenda della presidenza italiana si sta delineando, però posso anticipare alcuni filoni nei quali noi ci intendiamo muovere, allo scopo non solo di ottenere nella durata del semestre risultati concreti, ma anche e forse soprattutto di indirizzare in misura molto sostanziale il dibattito che sarà successivo alla presidenza italiana, durante il quale, vorrei ricordare, si insedierà la nuova commissione, probabilmente tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Quindi dare un'indicazione strategica importante che credo che l'autorevolezza e il peso del Paese e del Governo permetteranno di ottenere. Quali sono, per riassumere rapidamente, i pilastri di questa strategia? Ne indico 3. Innanzitutto individuare e rafforzare negli strumenti a livello europeo strategie per maggiore crescita. Quello che ho in mente è un rafforzamento dell'iniziativa Europa 2020, che pone, come sapete, al centro crescita, occupazione, sviluppo sostenibile, innovazione. Noi riteniamo che si debba fare uno sforzo che leghi molto meglio e più chiaramente gli obiettivi agli strumenti, che ci sia un raccordo forte con l'approfondimento del mercato interno e che si sostenga lo sviluppo di accordi di integrazione commerciale transatlantica, di investimenti transatlantica. Secondo filone, sfruttare meglio il potenziale delle riforme strutturali e l'interazione delle riforme strutturali con il processo di aggiustamento di bilancio, che deve essere migliorato sia nella qualità che nel profilo, e infine l'attivazione di strumenti finanziari che permettano di fare leva sugli investimenti pubblici per avere molti più investimenti privati, anche con nuove regolazioni finanziarie e nuove risorse da destinare a Banca Europea degli Investimenti. Sulla questione del gas siamo addirittura al complotto. Ci scrivete: ma pensa un po', negli ultimi 30 anni c'è stata una corsa alla conversione delle caldaie da gasolio a metano per non inquinare, e ora ma no, ma non è quello il punto. Nel frattempo sta parlando su questi temi anche Marine Le Pen, ve lo segnalo perché comunque è una valutazione di cui tener conto. Dice: la stupidità dell'Unione Europea, che ha cominciato una guerra fredda con Mosca, ha avuto la conseguenza di gettare la Russia nelle braccia della Cina, con la quale ha firmato un contratto gigantesco. Insomma, uno potrà non condividere molto di quello che dice Le Pen, ma insomma, in questo caso, pur con toni forti, l'analisi è abbastanza azzeccata. L'Europa, dice ancora Padoan, si trova di fronte ad un bivio tra una crescita asfittica e una velocità diversa. La differenza è nelle mani dei policy makers europei. ossia quelli che fanno la politica, i decisori politici, in particolare del governo italiano. Ho ricevuto molte congratulazioni e molte aperture alle proposte dell'Italia per mettere al centro crescita e occupazione con misure innovative e con una riconsiderazione del quadro generale. Anche qua, senza voler fare polemica, per carità, però chiaramente le congratulazioni e le aperture arrivano sempre quando si dice vogliamo mettere al centro la crescita e l'occupazione, bisogna vedere poi come vengono declinate in politiche fattive. La lotta alla disoccupazione, dice ancora Padoan, non è la prossima priorità, è l'attuale. Non è la prossima, è l'attuale priorità del governo. Purtroppo la disoccupazione rimane ancora elevata, la crescita stenta ma si rafforzerà e quindi una combinazione di crescita più sostenuta e misure di riforma strutturale nel mercato del lavoro produrranno più posti di lavoro nei prossimi trimestri. Era intervistato da Sky TG24. Ha parlato anche dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Esigibili e liquidi ammontano al 31 dicembre 2012 a 60 miliardi di euro, dice. Le precedenti stime di Banca Italia, fatte sentendo solo i creditori, parlavano di 91 miliardi. 60 sono in grandissima parte già stanziati e 24 già pagati. Sentiamolo. Bisogna riconsiderare il modo in cui la pubblica amministrazione nel suo complesso funziona, quindi un sistema che traduce in misure concrete leggi approvate dal Parlamento e già si stanno facendo molti progressi, il lavoro condotto dal Ministro Madia e da che noi sosteniamo fortemente è fondamentale in questo senso. Fin qui le dichiarazioni anche di principio, e poi ci sono le note dolenti, la maledetta Tasi che ci ha tenuto appesi. Moltissimi di noi non sanno ancora quanto dovranno pagare perché, come sapete, molti comuni non hanno approvato le delibere in tempo, le avrebbero dovute approvare entro il 23 di maggio. Alcuni non ci sono riusciti per ragioni oggettive, ossia il fatto che si andava a votare, i consigli comunali sono stati sciolti abbastanza presto e le ultime indicazioni sulla Tasi dal Ministero dell'Economia, dall'Agenzia delle Entrate, sono arrivate dopo lo scioglimento dei consigli comunali, quindi evidentemente la delibera in quel caso non si poteva approvare. Altri forse un pochino ci hanno marciato. Detto ciò, come sapete c'è il rinvio, per cui in una serie di comuni, in questi comuni che erano ritardatari, la prima rata Tasi si pagherà il 16 di ottobre. Dice il presidente dell'ANCI Piero Fassino che per questi comuni, che se no rischiano di trovarsi senza soldi in cassa, ci sarà l'anticipazione da parte dello Stato. Il problema non è la Tasi, ma le risorse complessive che hanno a disposizione. Precisa però lo stesso ministro dell'economia Piercarlo Padoan, dice sì, ci sarà un'anticipazione temporanea da parte dello Stato, ma, aperte virgolette, nell'ambito delle risorse disponibili. E di risorse non è che ce ne siano tante. È la nostra chiosa questa, non è di Padoan. L'Istat ha diffuso innanzitutto i dati di oggi che indicano un clima di fiducia delle imprese italiane che scende in maggio a 86,9 da 88,8 di aprile, e si tratta del secondo calo consecutivo. Riguarda soprattutto la fiducia delle aziende ai servizi di mercato e di quelle di costruzione. Stabile la fiducia delle manifatturiere, migliora quella delle imprese del commercio al dettaglio. L'Istat però ha anche presentato il rapporto annuale, dal quale emerge che nel 2013 erano 3 milioni le famiglie in difficoltà senza nessun componente lavoratore. In 5 anni sono aumentate del 35% le famiglie dove lavora solamente una donna, mentre crescono di numero i genitori disoccupati e le donne costrette a lasciare il lavoro dopo il parto. ora sono al 22,3%, 5 anni fa erano circa il 18%. In 5 anni sono stati 100.000 i giovani emigrati per cercare occupazione. Il dirigente generale del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali, Linda Laura Sabbadini, proprio sui dati relativi alle famiglie. Da un punto di vista delle famiglie, quello che va considerato è che il dato complessivo che emerge è che aumentano le famiglie senza redditi da lavoro o senza pensioni da lavoro. Aumentano le famiglie monoreddito e diminuiscono ovviamente le famiglie con due o più percettori. Il peso del reddito da lavoro sta diminuendo nell'ambito del reddito familiare, mentre aumenta il peso del reddito da pensione. Cioè i pensionati in sostanza stanno diventando in qualche modo una risorsa in più a fronte della perdita del lavoro per il complesso del nucleo familiare. Poi magari sul gas ci torniamo, almeno come per dare qualche risposta agli sms, perché ne state mandando anche di interessanti e anche di polemici, insomma, sulle valutazioni in merito alle dichiarazioni di Le Pen. Mi fa piacere rispondere. Roberto Monducci, dirigente generale del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche dell'Istat, dice che le imprese italiane hanno subito uno shock di domanda interna enorme che è ancora in corso, e grazie. È aumentata invece la propensione all'esportazione, più 7%, che ha sostenuto il PIL evitando ulteriori cali. In particolare quello che abbiamo visto e che emerge come tratto distintivo è il fatto che le imprese italiane hanno subito uno shock di domanda interna enorme, nel senso che abbiamo avuto una divaricazione tra una domanda interna persistentemente depressa, sia sul fronte beni di consumo che beni di investimento, e questa depressione sostanzialmente è ancora in corso, quindi da questo punto di vista la recessione è terminata, ma la stagnazione no. Invece abbiamo avuto una forte spinta verso l'estero da parte delle imprese. La propensione alle esportazioni delle imprese manifatturiere è aumentata di 7 punti in 5 anni, dal 33% del fatturato è passata al 40% del fatturato, quindi ci avviciniamo a rapporti importanti in termini di internazionalizzazione delle imprese. E questo ha sostenuto il PIL, anche se non l'ha fatto crescere, però ha evitato cali ulteriori. Infine, altro dato dalla crisi, la Covip, che è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ha segnalato questa mattina nella sua relazione annuale che è salito a 1,4 milioni, 1 milione 400 mila, il numero degli iscritti ai Fondi Pensione, che ha sospeso i versamenti soprattutto a causa appunto del protrarsi della crisi economica. Pausa, ci ritroviamo tra un attimo per parlare di Europa. Allora, qualche risposta agli sms che sono arrivati sulla questione del gas. Non ho mai detto l'Europa deve ubbidire a Putin perché lo dice la Le Pen. No. Ho detto che, pur con quei toni forti, l'analisi di Le Pen che ha fatto Marine Le Pen oggi, dicendo sostanzialmente che avevamo spinto la Russia, insomma, se non proprio nelle braccia della Cina, in qualche modo sì, vi ritrovo la frase esatta. La stupidità e l'Europa getta la Russia nelle braccia della Cina. Allora, sono frasi forti, ed è vero anche, come ci fa notare qualche altro ascoltatore, che la Russia era in trattativa da anni con la Cina per la fornitura di gas. Per carità, tutto vero. Diciamo, possiamo dire che l'Europa non ha gestito la vicenda Ucraina nella maniera migliore, questo lo consentite, almeno questo? E non che dovesse obbedire a Putin, proprio per come è stata ondivaga nella gestione della vicenda ucraina, perché poi le mosse si potevano fare da quel punto di vista sono tante. Non scordiamoci che, così come noi dipendiamo dalla Russia in questo momento, la ricchezza della Russia dipende anche dalle sue esportazioni di gas verso di noi. E ancora, ha ragione chi parla di rigassificatori, perché è vero anche che in questi anni non abbiamo fatto niente per la nostra sicurezza energetica, come Italia e in parte anche come Europa. È oggettivo. Oggi tra l'altro c'è una bella pagina del Sole 24 Ore dedicata a tutti i blocchi burocratici, amministrativi e via dicendo in merito all'estrazione di petrolio in Italia. Ve la consiglio, andatevela a vedere. La borsa. Giornata positiva, più 0,85% sul FTSE MIB, più 0,84% sul FTSE All Share, Parigi più 0,04%, Francoforte giù dello 0,02%, e Londra in rialzo dello 0,06%. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Anzi, buonasera, io ormai ho una certa abitudine, andando in onda normalmente dall'una alle due. Guido, andiamo meglio del resto d'Europa? Sì, andiamo meglio del resto d'Europa, perché oggi c'è stata un'asta di BOT a sei mesi che ha registrato, a parte tassi in discesa, anche una forte domanda. Lo spread si mantiene a livelli tutto sommato bassi, in area 165 punti base, questo ha riportato un po' di acquisti sul settore bancario, unito questo a un paio di temi particolari di giornata oggi per la borsa, in particolare Autogrill e Telecom Italia, ha fatto sì che il listino milanese si sia mosso meglio di quello che hanno fatto gli altri in Europa, che ormai guardano già i dati macroeconomici che verranno diffusi domani. Bene, già la città di Telecom. Sì, per quello che riguarda Telecom, oggi c'è stato un report di Goldman Sachs che ha posto come prezzo obiettivo per il titolo 1,5 euro, cioè un prezzo molto più alto rispetto a quello attuale che è 0,9. Secondo gli analisti potrebbe riaprirsi la questione del Brasile, che è uno dei temi, un evergreen per Telecom Italia, potrebbe riaprirsi dopo le elezioni che ci saranno nel paese sudamericano in ottobre, con possibili operazioni straordinarie, per cui questo ha dato un po' fiato al titolo. Allora, bene Autogrill, lo si diceva, un guadagno del 4,23%, qua si ipotizza un secondo trimestre del 2014 positivo, no? Oggi c'era l'assemblea della società, che è stata anche l'occasione per il management di fare un po' il punto su come sta andando la società, come stanno andando questi primi mesi, e appunto l'amministratore delegato ha detto che il secondo trimestre dovrebbe essere migliore del primo, il presidente della società Gilberto Benetton si è spinto anche un po' più in là, ha detto che sta andando abbastanza bene, e sull'onda di queste parole oggi il titolo ha guadagnato oltre il 4%. Tra i titoli negativi si diceva Jux, un calo del 2,16%, in assoluto il titolo peggiore, è molto peggio anche degli altri titoli negativi in realtà. Sì, ci sono alcuni titoli che abbiamo visto oggi a Piazza Affari che sono negativi, ma la cui spiegazione sta un pochettino in quello che avevano fatto nei giorni scorsi. Ad esempio Jux negli ultimi 10-15 giorni aveva guadagnato oltre il 10%, lo stesso discorso si può fare anche per la Banca Popolare di Milano, meno 0,45%, che dopo il successo dell'aumento di capitale aveva guadagnato addirittura il 20% nelle ultime due settimane, un po' di prese di beneficio in una giornata senza grandi spunti, senza grandi indicazioni, che appunto sono andati a colpire quei titoli che si erano comportati meglio. Quindi non grandi indicazioni. Infine Fiat. Sì, per quello che riguarda Fiat, più 0,65%, ieri ci sono state le parole dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, che ha rassicurato sul fatto che gli obiettivi 2014 sono alla portata del lingotto, ma ha posto l'accento su quello che sarà l'Alfa Romeo, perché proprio il rilancio del marchio Alfa Romeo è una delle grandi incognite. Oggi il titolo si è mosso comunque bene, perché la conferma degli obiettivi, almeno nel breve periodo, è una notizia positiva. Certo, gli analisti sono un po' preoccupati rispetto al rilancio dell'Alfa Romeo, su cui comunque il gruppo punta molto per sviluppare volumi e redditività nell'arco di piano che arriva al 2018. Ti saluto e ti ringrazio, grazie a Guido Maurino di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, una buona serata. Noi vediamo anche il resto del mercato, come sono andati i titoli. Abbiamo detto di Autogrill e Telecom, bene anche UbiBanca, oggi più 2,72, il Banco Popolare il 2,47, ha fatto bene Gtech più 2,12%, sopra il 0,5% di guadagno Intesa San Paolo, la Popolare Emilia Romagna, Finmeccanica, Moncler A2A più 1,39%, ha guadagnato più di un punto percentuale Unicredit, World Duty Free, Unipolsai, Prismian ed Enel, appena sotto il 0,5% di guadagno il Monte dei Paschi più 0,93%, più 0,7 Generali e Atlantia, Fiat come si diceva un più 0,65% in chiusura e poco, un più 0,6 Mediaset, un mezzo punto percentuale di guadagno per Mediobanca e poco sopra la parità troviamo Tenaris, Mediolanum, Saipem, Campari, Buzzi Unicem, Luxottica, Tots, Enel Green Power e CNAGO, CNH Industrial, giù Exor dello 0,19%, Azimut dello 0,20%, Eni dello 0,21%, Ferragamo dello 0,22%, Snam dello 0,23%, Terna e Pirelli giù dello 0,3%, la Popolare di Milano si è detto lo 0,45%, Jux il 2,16%. Traffico e poi veniamo alla trattativa sulle nomine europee. Ed eccoci a Riccardo che ci scrive: quindi dovevamo chiedere a Kiev di arrendersi a Putin e lasciare l'Ucraina alla Russia e poi altri stati ancora? No, ribadisco, non abbiamo detto questo. Diciamo che l'Unione Europea ha gestito una questione strategica non solo per le forniture energetiche ma anche perché, così usciamo dalle questioni del gas, ti stai ritrovando una guerra civile a due passi da casa, poteva gestirla meglio, in maniera probabilmente meno divaga, probabilmente con più forza, probabilmente anche un difetto iscritto in questo momento nel DNA delle istituzioni europee. Ed è proprio di istituzioni europee che andiamo a parlare. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buongiorno, buonasera Adriana. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, trattative in corso, Matteo Renzi dice prima parliamo dei problemi e poi dei nomi, ma alla fine Adriana è quello che si dice sempre, in realtà è ai nomi che si sta pensando in questo momento. Sì, certamente, certamente, anche se il futuro Presidente della Commissione Europea dovrà presentare un proprio programma di lavoro sulla base del quale verrà accettato o respinto dall'Europarlamento. Perché la grande novità di questa volta, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è che il nuovo Presidente del Parlamento non sarà soltanto scelto dai capi di governo, i quali dovranno, diciamo, approvare a maggioranza qualificata la sua scelta, ma poi dovrà ottenere un'altra maggioranza indispensabile nel Parlamento europeo che lo voterà o lo vocerà a maggioranza semplice. Per ottenere l'approvazione del Parlamento è necessario che presenti un programma, perché è su quella base che verrà, ed è proprio su quella base che si cercherà di costruire l'alleanza tra i due maggiori partiti tradizionalmente dell'emiciclo, che sono appunto i popolari arrivati primi in queste elezioni e poi i socialisti. Quindi diciamo il programma per una volta non è, diciamo, del semplice bla bla, ma è uno strumento che serve per costruire un'alleanza parlamentare che è indispensabile per diventare presidente. Adriana, tu frequenti Bruxelles e segui le vicende europee ormai da parecchio. Ti chiederei questo: se hai l'impressione che la botta realtà sia stata sentita anche da chi doveva sentirla, ossia la Germania, cioè il fatto di ritrovarsi una Francia con una Le Pen al 25%, una Gran Bretagna, tra l'altro tra un attimo parleremo con Leonardo Maisano, altro tuo collega del Sole 24 Ore da Londra, con l'UKIP appunto che diventa primo partito. Vorrei capire la tua sensazione, se la tua sensazione è che a Bruxelles la botta si sia sentita e si sia ripercossa in Germania. Beh, la stessa Germania ha avuto una bottarella, non direi una botta, perché il partito che si chiama Alternativa per la Germania, cioè il partito anti-euro, ha ottenuto il 7%, che voglio dire è un netto incremento rispetto al voto delle elezioni legislative nazionali, e infatti manda, se non ricordo male, 5 deputati al Parlamento europeo. Quindi anche la Merkel deve stare attenta, perché anche in casa sua, nonostante il benessere eccetera eccetera, crescono le voci critiche nei confronti della gestione dell'euro, naturalmente per ragioni opposte rispetto a quelle per cui il Sud contesta la gestione dell'euro, certo. però comunque delle contestazioni ci sono, quindi i suoi margini non sono larghissimi. Ma detto questo, non c'è dubbio che il messaggio le sia arrivato. Non a caso, subito dopo le elezioni, lei ha parlato di crescita, lavoro e investimenti da rilanciare per recuperare il consenso europeo. Quindi ha capito perfettamente il messaggio. D'altra parte, la politica di austerità, diciamo a senso unico, che lei ha imposto all'Europa, non ha dato tutti i risultati sperati, perché voglio dire, anzi direi molto pochi, Adriana. No, dico da lei sperati, da lei non sperate. da lei sperati. Allora, lei ha prodotto recessione e disoccupazione, il che potrebbe aver avuto ai suoi occhi un senso, nel senso che lei ha sempre sostenuto che i paesi del sud avevano ecceduto nelle spese vivendo al di là dei loro mezzi, quindi, ma il problema è che questi paesi sono dimagriti, ma non sono per questo riusciti ad abbattere il debito, che era l'obiettivo diciamo di questa austerità. Quindi proprio perché hanno creato recessione, e naturalmente siccome il debito in Europa si calcola come un rapporto tra crescita del PIL e indebitamento, è ovvio che il debito è salito, certo, crollando la crescita. Ora, questo è un problema serio, perché la stessa Germania non cresce, diciamo, a ritmi da locomotiva, se li sogna, i tassi americani, che non sono già quelli cinesi, ma comunque sono doppi di quelli europei. Allora anche la Merkel ha una necessità di in qualche modo non far proprio marcia indietro, perché sarebbe impossibile, ma comunque di temperare la sua politica europea. E poi sa che se non lo fa, la Francia di Hollande, che è debolissima e in più minacciata dalla Marine Le Pen e dal Fronte Nazionale, crollerebbe. Non ci dimentichiamo che la Francia è il paese che a suo tempo, nel 1954, bocciò l'Europa della difesa, che fu un trauma pazzesco per l'Europa. Nello stesso tempo, nel 2005, ha bocciato la Costituzione europea, cioè è un paese che facilmente si imbizzarrisce sull'Europa e quindi può compiere dei gesti, diciamo, per certi versi inconsulti. Allora la Germania sa che la deve prendere con le molle. Allo stesso tempo la Germania non vuole mollare gli inglesi, sì, perché da sempre gli inglesi fanno parte del suo disegno europeo, soprattutto in questo, certo, momento in cui c'è un problema di euro e mercato unico da salvare, quindi gli inglesi sono essenziali. Ed allora in tutto questo, secondo me, può avere un ruolo anche una prudente politica di crescita, di investimenti, aiutata in ogni caso da Mario Draghi, che appunto sta scendendo in campo. Certo. Allora, Adriana, io intanto ti ringrazio e saluto Leonardo Maisano, chiamato in causa proprio da Adriana Ceretelli, per così dire, perché è il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Leonardo, ciao, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ti farei innanzitutto una domanda breve, poi ci risentiamo dopo il giornale radio, perché abbiamo letto che in questa trattativa per le nomine, il governo inglese ha chiaramente chiesto, tra le righe chiesto che non fosse Juncker, come dire, a guidare la commissione. Se innanzitutto ci puoi confermare questo. Sì, assolutamente. È considerato, come dire, l'espressione dell'Europa che meno piace l'Inghilterra, cioè quella di stampo, diciamo, più tradizionale, federalista, di tradizionale continentale. In questo momento l'Inghilterra ha bisogno, lo aveva anche prima, adesso molto di più, dopo il voto con l'UKIP, bisogno di, come dire, di un cambio di marcia. Se poi questo sarà possibile è tutto un altro discorso, però questa è l'esigenza politica di Cameron. Allora, Leonardo, ti voglio parlare subito dopo per capire quali possono essere poi le prospettive politiche anche della Gran Bretagna all'interno dell'Europa. Pausa, GR, a dopo. Chigava. Buonasera da Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, oppure mi potete scrivere su Twitter se ci siete, Simone Spezia, mi trovate. Stavamo parlando della Gran Bretagna, la Gran Bretagna e l'Europa. Gran Bretagna che esce da un risultato elettorale con l'UKIP primo partito, il 28%, il Labour al 25,7, i Tories al 24,5. E siamo ancora con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Eccoci Leonardo, va bene, all'ascoltatore che ci scrive: non ho capito chiaramente perché Cameron si oppone a Juncker. È semplicemente il fatto che evidentemente non rappresenta il cambiamento necessario, no? Insomma, anche come figura politica. Dall'altra parte io vorrei avviare una riflessione con te, Leonardo, poi naturalmente se ne tornerà a parlare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, senza ombra di dubbio, sul tema molto semplicemente della permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea, perché segnali anche dall'attuale governo erano arrivati, insomma, di fastidio, per così dire, e insomma l'avanzata dell'UKIP a noi che siamo qua sembra spingere la Gran Bretagna decisamente fuori dall'Unione. Sì, paradossalmente devo dire l'avanzata dell'UKIP agevola Cameron, nel senso che consente a Cameron di presentarsi a Bruxelles dicendo: vedete in che condizione sono, cioè vedete qual è la realtà del mio paese, quindi cercate, come dire, di venirmi incontro su richieste che io ritengo ragionevoli per negoziare nuove condizioni di membership all'Unione Europea da sottoporre a un referendum. A quel punto io farò campagna per restare nell'Unione Europea alle nuove condizioni e forse riusciamo, come dire, a contenere il fenomeno UKIP. Questo potrebbe essere il progetto di che è un po' il gioco di tutti, Leonardo, no? Presumibilmente anche di Hollande, evidentemente di tutti gli altri che si sono trovati gli euroscettici in forte crescita in casa. Certo, ma con una differenza di fondo, che questo paese va al referendum a differenza degli altri per l'adesione o meno, per rimanere o meno nell'Unione Europea. Questo è un impegno che Cameron ha preso e se Cameron vincerà le elezioni dell'anno prossimo, nel 2017 andrà al referendum. Allora, una cosa è andare al referendum dicendo: io non ho spuntato nulla e quindi Juncker è nuovo Presidente della Commissione, si va verso si prosegue sul cammino di un'Europa sempre più federalista come Juncker, di cui Juncker è un'espressione, come dire, metaforica nell'immaginario britannico, oppure ho negoziato qualcosa d'altro, ho cambiato, sono in grado di convincere il mio paese che questa è la differenza di fondo. L'Inghilterra ha un referendum, gli altri paesi no. Grazie a Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, per l'analisi puntuale e, ripeto, non sarà un tema che esauriremo qua perché a quanto pare i tempi della formazione della nuova Commissione Europea sono anche piuttosto lunghi, insomma non sono proprio brevissimi. Grazie Leonardo Maisano. Dunque, cambiamo argomento e parliamo in qualche modo ancora di elezioni europee, dei risultati delle elezioni europee, dell'impatto che stanno avendo sui mercati. Grazie. sono. C'è la nota di Fitch, l'agenzia di rating, che dice che la chiara vittoria del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle e Forza Italia rafforza il mandato di Renzi, è positivo per il profilo di credito e quindi potenzialmente appunto sul giudizio sull'Italia, perché dovrebbe dare a Renzi ulteriore spinta per l'agenda di riforme economiche, questo dice Fitch. Nel frattempo oggi il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi e mezzo di euro di bot a 6 mesi, con tassi in calo allo 0,492% dallo 0,594 di aprile. È andata molto bene anche la domanda. Se avete sentito qualche colpo di tosse di sottofondo, era Moria Longo del Sole 24 Ore che ci ha raggiunti in studio. Moria, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, è solamente l'effetto delle europee, perché ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con qualche analista finanziario, con qualche operatore di mercato, e ci diceva, insomma... Le vendite che abbiamo visto prima delle europee, ne abbiamo parlato prima delle europee naturalmente, le vendite che abbiamo visto prima delle europee erano dovute anche al fatto che gli investitori si stavano un po' scaricando di roba che avevano accumulato nei sei mesi precedenti. L'impressione tua da osservatore di mercati è che si torni in parte a scommettere sull'Italia oppure no? Sì, diciamo che le vendite che c'erano prima delle elezioni, che sono state la settimana precedente alle elezioni, erano dovute a due motivi. Innanzitutto sono partite il 15 maggio con il dato molto negativo sul PIL italiano che ha sorpreso tutti, perché tutti si aspettavano una lieve crescita, invece l'Italia ha avuto una decrescita del PIL, anche se dello 0,1, ma comunque aveva il segno meno. Quello ha dato il via. Ha sorpreso tutti. Dopodiché è iniziata la grande incertezza elettorale, perché iniziavano i sondaggi, finché erano possibili, sondaggi ufficiali. Dopodiché è iniziata il girandola di voci, di rumor, che solitamente arrivano da Londra, non si sa bene come mai, su sondaggi ufficiosi che davano un testa a testa e in certi momenti davano un sorpasso del Movimento 5 Stelle sul PD. Questo creava grave incertezza, perché ovviamente l'investitore, quando uno mette soldi in un investimento, solitamente vuole avere una ragionevole certezza delle cose, di come andranno le cose. Un'incertezza così grande, così enorme sulla tenuta stessa del governo Renzi e sul futuro dell'Italia, ovviamente creava incertezza e quindi creava flussi di vendita. Che non è, lo chiarisco poi per gli ascoltatori, perché sennò uno dice effetto Renzi sui mercati, state facendo propaganda. Non è questione di Renzi o non Renzi, è una pura questione di incertezza. Cioè che da quel momento non sai che cosa succede quando hai due partiti affiancati e dal punto di vista politico non hai garanzia della mitica stabilità. I mercati vogliono visibilità sul futuro, l'incertezza li spaventa, li spiazza, e quindi siccome avevano comprato molto hanno iniziato un po' a ridurre i portafogli. Poi sarebbe bene che anche loro, come noi, o meglio, non commettessero l'errore che continuiamo a fare noi, cioè fidarsi dei sondaggi. Intanto traffico e poi ci ritroviamo tra un attimo. Con Moria Longo del Sole 24 Ore, stiamo parlando di mercati. Io vorrei anche capire da te se i segnali al momento sono positivi per i motivi che ci siamo detti, e non è tanto una questione di Renzi o non Renzi quanto una questione di stabilità e di visibilità sul futuro, nel senso che hai un governo con il partito principale che è al 40%, quindi i cosiddetti mercati, che poi sono gli investitori, hanno la ragionevole certezza che questo governo vada avanti per un po' e faccia quello che ha promesso, faccia cose, insomma, provi a fare, diciamo, provi quantomeno a fare. Ti vorrei portare anche un po' sul resto d'Europa, perché insomma oggi abbiamo visto, sono arrivati questi dati, devo dire piuttosto interessanti, dalla Francia, dai quali emerge di fatto un buco di bilancio, per così dire, da 14 miliardi in termini di gettito fiscale nel 2013, perché molto semplicemente l'economia non tira, come è successo da noi, e le entrate entrate fiscali calano nonostante i tagli alla spesa pubblica. Io vorrei capire come vedono i mercati in questo momento altri paesi che non fanno parte dei cosiddetti periferici, ma che magari proprio per la situazione politica molto tesa possono apparire a rischio. La Francia su tutti. Allora, sulla Francia c'è ovviamente grande incertezza, perché il risultato elettorale, anche se era abbastanza atteso, ha colpito i mercati. Detto questo, non c'è stata una reazione forte né sul fronte dei titoli di Stato né sul fronte delle azioni. Il motivo principale è questo, che sostanzialmente i mercati, archiviata l'incertezza elettorale, archiviato il grande punto di domanda, ripeto, la vittoria del Fronte Nazionale in Francia era comunque già nei fatti dei sondaggi, era quindi già anticipata dai sondaggi, ora il mercato guarda al prossimo evento importante che sarà anche riflesso del risultato elettorale, cioè la riunione della Banca Centrale Europea del 5 giugno. In quella riunione Mario Draghi l'ha fatto capire più volte, la BCE farà qualcosa, probabilmente farà un mix di politiche monetarie, sia quelle convenzionali, quindi taglierà banalmente i tassi, sia non convenzionali, soprattutto per sostenere il credito dalle banche alle imprese, per cercare di farlo ripartire. Oggi sono usciti dati ancora negativi a livello europeo sul credito alle imprese, e per far risalire l'inflazione che è molto bassa, è troppo bassa, e anche per fare un po' scendere l'euro. Non tanto perché la Banca Centrale Europea possa pilotare l'euro, che non è nel suo mandato, ma perché, Draghi l'ha detto più volte, l'euro troppo forte importa deflazione. Quindi per far risalire l'inflazione in qualche modo bisognerà cercare di abbassare l'euro. Ebbene, i mercati in questo punto, archiviata l'incertezza elettorale, adesso guardano soltanto questo evento. E quindi si stanno muovendo, tant'è vero che oggi l'euro è sceso, da qualche giorno che sta scendendo, e guardano a questo evento della BCE. Quindi tutti i problemi che l'Europa ha, tra cui quelli francesi, ma abbiamo problemi anche noi in Italia fortissimi, non è che la vittoria elettorale ha cambiato la situazione drammatica dell'economia, però i mercati adesso guardano già al prossimo evento, la BCE, sperano che la BCE tiri fuori dal cilindro un coniglio più grosso del solito che abbia un effetto benefico sull'economia. Allora, euro che quota, per darvi anche il dato, 1,3596 contro dollaro in questo momento. Infine la Germania, perché è il secondo giro consecutivo che l'asta dei titoli di Stato tedeschi non va particolarmente bene dal punto di vista della domanda, naturalmente, tanto che la Bundesbank è stata costretta a coprire, ad acquistare 377 milioni del collocamento di oggi, che era per dei trentennali, per dei titoli di Stato trentennali. Da questo lato? Da questo lato la logica è semplicemente di convenienza degli investitori. Comprare un titolo di Stato trentennale, 30 anni sono lunghi, in un momento di tentativo di ripresa economica, comunque in un momento in cui il futuro appare più chiaro che scuro. Comprare un titolo di Stato tedesco così lungo, che ha un rendimento molto basso, se non ricordo male, adesso ce l'ho davanti, ma 2, qualcosa, questo non attira molto gli investitori. Gli investitori preferiscono in questo momento cercare rendimenti maggiori, quindi rischiare di più, andare in paesi come l'Italia o la Spagna o addirittura la Grecia, che ha avuto un fortissimo exploit dei suoi titoli di Stato, perché gli investitori hanno bisogno di rendimento in questo momento. Quindi un titolo trentennale tedesco aveva più senso nei momenti bui della crisi, ha meno senso oggi. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore, come sempre, per i suoi chiarimenti. E noi chiudiamo questa puntata di Focus Economia con un argomento parzialmente più politico, ma non troppo, ossia ancora una volta il voto, ma soprattutto il voto del Veneto. Perché ne parliamo? Perché è una delle zone più produttive di questo paese. È pieno di imprenditori. L'export veneto incide sul PIL per circa il 50%. Ed è il luogo forse dal quale si sono manifestati i più forti segnali di insofferenza negli ultimi anni nei confronti del governo centrale. E non c'è dubbio che il Partito Democratico o Matteo Renzi hanno recuperato moltissimo, un risultato storico per un partito di centrosinistra, intorno al 37% in Veneto, nel nord-est nel suo complesso il 43,5%, e senza dubbio un'apertura di credito. Renzi ha detto: sarò alle assemblee degli industriali del Veneto, prima a Verona e Vicenza il 16 giugno, poi a quella di Treviso il 21 giugno. Roberto Zuccato, presidente di Confindustria Veneto, buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera a lei e a chi ti ascolta. Vorrei parlare proprio di questo, di questa apertura di credito che anche il mondo produttivo ha dato al Presidente del Consiglio e che evidentemente tutta la regione ha dato, non solamente il mondo produttivo, e vorrei capire a cosa è condizionata questa apertura di credito. Guardi, più che condizionata, io ho una mia analisi che è basata sulle caratteristiche storiche e sociali del nostro territorio. È un territorio che, come lei sa bene, da terra contadina si è trasformato negli anni 60 in avanti in una delle aree più industrializzate d'Europa, e con una cultura che veniva da questa cultura contadina etica del lavoro, il senso del lavoro, del rispetto, della solidarietà, che ha dato tantissimo in termini di impegno personale, con la cultura, no, di testa bassa e lavorare. E questo concetto, i nostri dipendenti stessi sono imprenditori di se stessi come concetto, concettualmente. L'atteggiamento che c'è nei confronti dell'azienda è della propria azienda un bene da difendere e da sostenere. E dopo tanti anni di crescita, con alti e bassi, ci si è trovati negli ultimi 4-5 anni di fronte a una situazione che è precipitata completamente, e per un paese che ha dato, un territorio che ha dato così tanto, che ricordo come imposte pagate, come solidarietà, atteggiamento di accoglienza nei confronti di emigrati, di residuo fiscale che è di quasi 20 miliardi, quindi molto più di si manda al centro di quello che ritorna, ci si è sentiti un momento di bisogno di gravità come questo, sociale, non ascoltati, non capiti, non compresi. E probabilmente sottorappresentati anche. Questo è un problema che abbiamo da tanti anni, siamo proprio per questa cultura che noi ci bastavamo, che rimanevamo concentrati nel nostro lavoro, nel nostro territorio, non abbiamo preso in considerazione l'importanza invece della rappresentanza centrale. E di qui, come dire, questo endorsement, per così dire, del territorio nei confronti del Presidente del Consiglio, sia di Renzi o del partito? No, assolutamente di Renzi. Guardi, io mi ero esposto qualche giorno prima, come lei sa, perché percepivo sul territorio questa grande voglia di dare una chance a una persona che si presentava in una maniera diversa, che ti ascoltava in una maniera diversa, che sembrava disposto ad affrontare tutti quei problemi che noi chiedevamo da tempo come imprenditori e come cittadini, quindi riduzione della burocrazia, se era possibile taglio del cuneo fiscale, e tutto questo Renzi l'ha impersonato, un po' a promesse, un po' nei fatti, però ha dato questa speranza, questa fiducia che forse era una carta da giocarsi, ecco. Poi è andato oltre le aspettative, perché neanche io mi sarei mai aspettato un tale risultato. Però questa fiducia, Presidente, siamo quasi in chiusura, però per 30 secondi vorrei sentirla su questo. Sarà legata a qualcosa, insomma, cioè l'azione di questo governo, per così dire? Ma al fare, guardi, noi non abbiamo una richiesta precisa. Anche nella querela tra taglio IRAP, riduzione IRPEF, c'è stata molta disponibilità da parte nostra. L'importante è che si intervenga in fretta e che si capisca finalmente che non si può continuare in questa direzione. Noi ci salviamo perché, come ha ricordato lei, abbiamo un export straordinario, ma solo le aziende che sono posizionate sull'export o quelle che sono collegate alla catena del valore che va verso l'export stanno crescendo, stanno migliorando anche le performance. Tutto il resto, chi è costretto a stare sul territorio, e quindi le piccole imprese, gli artigiani, quelli legati alla filiera delle costruzioni della casa, ma il commercio, ma i servizi del territorio, è una sofferenza incredibile, mai vista prima dal dopoguerra, e quindi veramente è una situazione che sta mettendo a rischio anche una certa stabilità sociale. Per fortuna la ricchezza da noi era ben distribuita e quindi c'è ancora questa capacità di sopportare e di aiutare, la solidarietà che è molto presente da noi aiuta, e quindi lo stiamo affrontando abbastanza bene, però abbiamo bisogno di una speranza e credo che Renzi abbia impersonato proprio questo. La ringrazio, grazie Zuccato, grazie Presidente, grazie Zuccato, e buonasera. Gli altri ringraziamenti: Pietro La Corte in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione. Ringrazio tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo domani come sempre alle 13 con Effetto Giorno, perché per Focus Economia torna Sebastiano Barisoni. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, la passione si sente.